la dieresi sull'A e vi compagnano tutti i suoi album favolosi di musica per lo più lounge, ambient, relax, ma è veramente un ottimo artista che proviene dalla fredda Svezia con sonorità magari un pochino tra virgolette fredde, però direi stupende, bellissime se magari volete rilassarvi un attimo dopo la giornata trascorsa magari non so in giro, oppure la giornata trascorsa non so al lavoro. Tanto abbiamo un piccolo problema di streaming, vediamo se risolviamo. Vediamo un po' se ok, dovrebbe essere tutto a posto, ma purtroppo un problema mio personale. Lo confesso, stavo registrando la trasmissione e purtroppo mi è andato crash il nostro caro programmino per la registrazione. Visto che faccio tutto da solo, scusate ancora, ma è il bello della radio così fatta un po' in chiave anni 70, con voi sempre Andrea su Radio Oltrepò International. Un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche che ci stanno ascoltando quest'oggi in streaming. Ok, ho risolto tutto, bene, ho riaperto ancora il programma della registrazione. Vi dicevo, siete all'ascolto di Articolo 21, questo nuovo programma di Radio Oltrepò in diretta streaming dall'Oltrepò Pavese. Ed ora, visto che parliamo di Oltrepò Pavese, c'è ancora la fiera in corso a Broni, quindi un saluto a tutti gli amici e tutte le amiche di Broni che magari quest'oggi erano in fiera, è la nostra bella fiera. E diamo uno sguardo ora alle temperature per quanto concerne le città di Casteggio, Broni e Stradella. Domani mattina minima 10 gradi, massima 23 gradi. L'ho azzardata io, eh. Cielo sereno,